prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nel nostro giro tra le Caritas del territorio ritorniamo nella Caritas di Padova e conosciamo un'altra voce, un'altra operatrice che è Daniela Crivellaro al telefono con noi. Ciao Daniela. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, con te parliamo di una realtà particolare che è nata, sta nascendo proprio in quest'anno, in questi mesi, in diocesi di Padova, che è quella dei centri di ascolto vicariali. Abbiamo già parlato del centro di ascolto diocesano, che è importantissimo per il servizio che fa, ma voi avete fatto appunto questa scelta di scendere proprio nel territorio, visto che poi il territorio della diocesi di Padova è estremamente ampio. I centri di ascolto vicariali che cosa sono, quando sono nati nella vostra testa? Allora, il centro d'ascolto vicariale, intanto il nome completo sarebbe centro d'ascolto vicariale delle povertà e delle risorse, quindi stiamo cercando di aggiungere una connotazione in più rispetto a quello che era il centro di ascolto diocesano. I centri di ascolto nella storia della Caritas sono ormai attivi da decenni e decenni, è proprio uno dei servizi che caratterizza le Caritas in generale. L'idea di portarlo nei vicariati è stata un'idea appunto nata da noi recentemente. L'idea diciamo ha un paio d'anni, la realizzazione è più recente, abbiamo iniziato a realizzarla da circa un anno che ci stiamo lavorando, prima scrivendo il progetto su come volevamo lavorare, poi siamo partiti quest'autunno con il contattare i vicariati che secondo noi erano più predisposti a partire e a attivare il progetto. Il centro d'ascolto vicariale, proprio per dire cos'è, è uno sportello aperto a tutti, quindi che non si rivolge a una categoria di utenza o di persone, ma offre come diciamo servizio un'accoglienza, una competenza relazionale. Quello che chiediamo infatti anche ai volontari che vi operano è di non essere persone che hanno chissà quali titoli o altro, ma più che altro che portino uno stile di accoglienza, di ascolto, un dedicare tempo all'altro. Quello è il primo messaggio che dà un centro di ascolto, che poi svolge però anche una funzione di contatto con altri servizi, quindi di orientamento, di segretariato sociale e via dicendo, insomma. Anche in collaborazione appunto con le realtà istituzionali, insomma, penso, certo, sì. Penso alle ULS, ai comuni, che poi sono quelli che sono più vicini effettivamente ai problemi e alla vita delle persone. Dicevamo, il territorio della diocesi è molto ampio, questo progetto è partito in 9 vicariati che vorrei tu ci ricordassi. Sì, allora dei 39 vicariati della diocesi abbiamo deciso di partire con 9, che sono il vicariato di San Prosdocimo, che è abbastanza vicino alla città, poi quello di Vigo d'Arzere, di Tiene, Montagnana e Merlara, che sono 2 vicariati ma stiamo lavorando come se fossero un unico vicariato, quello di Teolo, Conselve, quello di Maserà, Abano e infine quello di Selvazzano. Insomma, coprendo anche abbastanza tutta l'estensione, e tu so che hai fatto anche molta strada perché il periodo di formazione appunto di questi centri d'ascolto avete deciso di farlo proprio nei vicariati. Sì, la prima cosa, proprio siccome ci tenevamo che cominciassero a emergere anche questi sportelli dei centri d'ascolto all'interno dei vicariati, perché noi crediamo che il territorio abbia una marcia in più. Cioè, incontrando le persone che abitano nelle tue stesse parrocchie, nel tuo stesso territorio, hai modo di conoscerli di più e di inserirli di più. Quindi ci tenevamo a valorizzare i territori e la prima cosa che volevamo fare è essere noi ad andare incontro a questa realtà, quindi non gestire sempre le cose da un punto di vista diocesano, quindi centrale, quindi con un punto di vista limitato, ma poter andare incontro. Il primo passo l'abbiamo fatto noi, quindi abbiamo deciso che i corsi di formazione fossero fatti vicariato per vicariato. Abbiamo chiesto a ogni vicariato di procurarci di dare la disposizione di una sala e poi siamo partiti in 3, il coordinatore del progetto, il direttore e io, a fare questo percorso di formazione che abbiamo concentrato tra ottobre e dicembre in tutti i vicariati, girando tutti i vicariati. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. concretamente come operano questi centri di ascolto vicariali delle povertà e delle risorse? Ricordo ancora l'estensione completa del nome perché è importante. Come operano? Allora, attualmente abbiamo fatto tutta la formazione. Adesso stiamo cercando di fare tutti i passaggi burocratici concreti perché loro possano aprire. Abbiamo chiesto a ogni vicariato di individuare uno o due sale, diciamo, all'interno del territorio, quindi in una delle loro parrocchie, di tutti i volontari che hanno fatto il corso, che sono in parte magari già provenivano da servizi Caritas, in parte sono state nuove risorse che le parrocchie hanno inviato, hanno individuato. Abbiamo chiesto a questi volontari di individuare dei giorni, degli orari in cui possono dare la loro disponibilità per creare dei turni di apertura, e concretamente poi il servizio sarà proprio di tenere aperti questi sportelli dove i volontari che sono stati preparati per questo e che comunque verranno seguiti anche in itinere nel servizio possano incontrare le persone del loro territorio, cercando di dare informazioni per quanto possibile, ma poi di coordinarle anche con tutti quelli che sono i servizi già esistenti nel territorio a livello di Caritas parrocchiale, ma non solo, come citavi tu prima, anche di altri servizi, insomma, quindi valorizzare un po' tutte le risorse. E quello che chiediamo concretamente a questi centri di ascolto, agli operatori che vi operano, è quello di essere un po' un canale di comunicazione, un ponte tra queste persone che magari stanno vivendo un momento di disorientamento, disagio, difficoltà, con quello che è il territorio accanto, in maniera di aprire un dialogo, di aiutarli a inserirli, di cominciare a conoscere, ma anche quello che si diceva delle povertà e delle risorse, partire da quello che è un momento di difficoltà per poi attivare loro stessi delle risorse, quindi riconoscere non come una persona che ha problemi, ma come una persona che è parte di una comunità, e permettere alla comunità allo stesso tempo di vedere in chi ha un momento di difficoltà non un problema da risolvere, scusami l'accento, ma qualcuno da aiutare, che è parte di te, quindi non un ente astratto, io risolvo questo problema e me lo levo dai piedi, ma in realtà no, mi rendo conto che c'è qualcuno a fianco a me che ha bisogno e che è parte della mia comunità, che abita proprio qua dove abito io, insomma, quindi creare un po' questo rapporto di vicinanza e di solidarietà. Quindi il compito che hanno anche questi volontari è prima di tutto di ascoltare attentamente queste persone, poi di aiutarle a mettersi in contatto con questi servizi, di offrire aiuti concreti ovviamente dove è possibile, di segnalare situazioni in maniera di attivare eventualmente anche i servizi o noi come Caritas diocesana o altre realtà per dare risposta a bisogni che magari in questo momento non la stanno trovando, quindi fare anche un'opera di advocacy o di denuncia sociale dove serve, in maniera di far partire anche nuove opere. Lo stile che noi vogliamo che abbiano è quello dell'accoglienza verso gli altri e del saper lavorare in equipe, perché poi noi quello che diciamo sempre anche ai corsi, inutile avere una grande capacità di ascolto verso chi è nel bisogno e poi non riesci a parlare con chi fa parte del tuo gruppo o chi è nella tua parrocchia, le liti, in realtà i bisogni più grandi li hai proprio là, e quindi portino avanti proprio con uno stile d'equipe anche queste decisioni o questi progetti di accompagnamento che inizieranno a favore delle persone. Ecco, io cito l'origine etimologica della parola parrocchia, che vuol dire vicino alle case, esatto. E credo sia proprio questo lo stile che avete scelto. Tra l'altro questo sabato 23 c'è anche il convegno diocesano al Cinema Excelsior. Esatto. È un altro appuntamento importante nella mattinata, il Cinema Excelsior di Padova. Io credo nella carità ed è quello appunto che auguriamo possano continuare a fare tutti gli operatori dei centri vicariali. Lo scopo, Daniela, è credo dopo questi 9, insomma, di allargare la rete anche al resto del territorio. Certamente, con le forze che ci saranno. Sì, sì, siamo partiti con questi 9 che li ringraziamo anzi perché ci hanno fatto un po' da apripista, ma poi l'idea è che una volta avviati questi 9, l'anno prossimo, quindi autunno e l'anno prossimo comincerò a formare altri 10 vicariati via via fino a raggiungere tutti i 39 vicariati della diocesi. Ecco. Nell'idea di coinvolgere tutti e creare una rete anche proprio tra i vicariati stessi, che sia più vicina alle persone, ai problemi e alle opportunità appunto che ci sono. www.caritaspadova.it per contattare, anche magari per mettersi a disposizione, perché no. Grazie a Daniela Crivellaro. Grazie di Caritas Padova. Grazie, buona giornata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.